Io ho sempre voluto fare lo scrittore. E lo scrittore a cui volevo somigliare era Pierpaolo Pasolini. Uno che muore così. Neanche James Dean. Tutto quel rigore, quella cultura, tutta quella profezia. Per poi morì così. Prima bastonato e poi schiacciato con la macchina, che era pure sua. Fu trovato in un campetto di calcio all'idroscalo di Ostia, circondato da baracche e baraccati, che la signora che la mattina si è trovato sto cadavere martoriato l'ha preso per un sacco dalla monnezza, tutto sfranto, rovinato, con la canottiera strappata, i capelli insanguinati, le ferite aperte, con dentro la sabbia appiccicata. E poi, sotto, i garzoni sbottonati. All'inizio, ma poi si è capito perché. Dovete sapere che lo scrittore c'aveva un vizietto. Gli piaceva andare con i ragazzetti. E quella sera, all'idroscalo, stava con un ragazzetto. È andata così. Pierpaolo era tornato da Stoccolma in aereo, dove era andato a presentare il suo ultimo film. Si chiamava Salò o le 120 giornate di Sodoma. Dopo che era tornato, si era incontrato per una specie di ultima cena con Ninetto. Ninetto Davoli, il ragazzetto con cui era stato tanto tempo e che nei suoi film appariva sempre come una figura angelica. Erano andati a mangiare pomidoro. C'era tutta la famiglia di Ninetto. Dopo, a una certa ora, aveva detto che c'aveva da fare. Ninetto lo sapeva dove doveva andare a una certa ora. Tutti lo sapevano. Doveva andare a cercare quel po' d'amore e di calore umano che tanto cercava. Quindi era salito sulla sua bellissima Alfa GT ed era andato alla stazione Termini. Poi aveva cominciato a girare, finché non si era fermato di fronte al bar di Piazza dei 500. Lì i ragazzetti, appena videro arrivare sta bella macchina, si avvicinarono. E Pierpaolo chiese ad uno di loro, che tra l'altro assomigliava tantissimo a Ninetto, gli chiese se gli andavate a farsi in giretto con lui e che gli avrebbe dato 20.000 lire se si fosse fatto da una toccatina. Il ragazzetto lo guardò, vide la bella macchina su cui stava e pensò che quei 20.000 lire gli sarebbero servite proprio ad aggiustare la 8,50 sua, che s'era rotta. Disse che però prima doveva rientrare al bar per farsi dare le chiavi di casa da un amico suo e poi tornò. Questo ragazzetto, un po' malandrino e un po' delinquente, un ragazzo di vita, appena salì in macchina disse a Pierpaolo che c'aveva fame. Allora Pierpaolo mise la prima e lo portò al Biondotevere. Giuseppe, per gli amici Pelosino, prese due spaghetti agli olio, un pezzo di pollo e un po' di patate. Lo scrittore aveva già mangiato e allora dopo, insieme, si bevvero una birra. Pierpaolo saldò il conto e presero la strada per Ostia. Ad un certo punto si fermarono per fare rifornimento. Qualcuno disse dopo che dietro di loro c'era una 1500 Fiat blu targata Catania con quattro persone dentro. E questa è una cosa che, tra l'altro, nel 2005, quando Pelosino era per tutti diventato la rana, l'angelo nero, l'assassino di Pasolini, ritrattando tutto quello che aveva detto fino a quel giorno, confermò. Allora i due risalirono in macchina e arrivarono all'idroscalo. Lì, in quel posto che avevo descritto prima, e non certo nel paese dei temporali e delle primule, tra fango e reti arrugginite, lo scrittore, il regista di Accattone e Mamma Roma, il vincitore di Venezia, il poeta delle ceneri, il corsaro d'Italia. Lì, seduto sul sedile di pelle della sua GT, accanto all'ennesimo Ali dagli occhi azzurri, attendeva i suoi frementi 5 minuti d'amore. Un amore sordidamente muto, di corpi senza anima. La furia della confessione, prima. Poi la furia della chiarezza. Era da te che nasceva, ipocrita, oscuro sentimento. E adesso accusino pure ogni mia passione. Mi infanghino, mi dicano informe, impuro, ossesso, dilettante, spergiuro. Tu mi isoli, mi dai la certezza della vita. Sono nel rogo, gioco la carta del fuoco e vinco questo mio poco, immenso bene. Vinco quest'infinita, misera mia pietà che mi rende anche la giusta ira amica. Posso farlo perché ti ho troppo patita. Torno a te come torna un emigrato al suo paese e lo riscopre. Ho fatto fortuna nell'intelletto e sono felice, proprio come ero un tempo, destituito di norma. Una nera rabbia di poesia nel petto, una pazza vecchiaia di giovinetto. Una volta la tua gioia era confusa con il terrore, è vero, e ora quasi con altra gioia, livida, arida, la mia passione delusa. Mi fai ora davvero paura, perché mi sei davvero vicina, inclusa nel mio stato di rabbia, di oscura fame, di ansia quasi di nuova creatura. Sono sano, come vuoi tu, la nevrosi mi ramifica accanto, l'esaurimento mi inaridisce, ma non mi ha. Al mio fianco ride l'ultima luce di gioventù. Ho avuto tutto quello che volevo, ormai. Sono anzi andato anche più in là di certe speranze del mondo. Svuotato, eccoti lì, dentro di me, che empi il mio tempo e i tempi. Sono stato razionale, sono stato irrazionale, fino in fondo. E ora, ah, il deserto assordato dal vento, lo stupendo e immondo sole dell'Africa che illumina il mondo. Africa, unica mia alternativa alla morte. Secondo il mio modesto parere, i grandi uomini di cultura non hanno mai capito niente di lui, della sua vita segreta, intendo, anche essendo sicuramente... No, grande... scusa, fermati. Ma come lo stai facendo? Lo stai facendo veramente male. E sai perché? Perché lo fai come la parte di un avvocato. Ma invece qui l'avvocato non c'entra niente. Tu lo sai chi è questo? Questo è Giuseppe Pelosi, l'assassino di Pasolini. E parlerà romano, no? Come parlano gli attori in accattone. Che c'entra l'avvocato? Non capito. Che faccio? Io comincio da capo? Sì. Secondo me i grandi uomini di cultura non ci hanno mai capito niente di lui. Niente. Pur essendo sicuramente grandi uomini di cultura. Pasolini era il primo a provocare i borgatari. E queste sono cose che a me m'hanno confermato in carcere. L'arti ragazzetti che come me... Era lui che voleva che gli sfondassero la macchina e in cambio regalava sordi, prometteva fama. Era sempre lui che voleva che gli menassero. E forse così si sentiva più vicino a quelli del sottoproletariato. Ma che ne sa questo de sto sottoproletariato? Insomma, era Pierpaolo Pasolini, il primo a cena a miccia e poi a godere delle scintille e degli schioppi. A me, nel primo processo, eppure in quello d'appello, hanno sempre negato che ci fosse stata provocazione da parte dello scrittore. Eppure lui, ben conoscendo il desiderio mio, quello di ricchezza, aveva fatto leva proprio su quello, sui sordi, su quei famosi 20.000 che mi ha allungato perché mi facessi da sta toccatina. Ma ha provocato sapendo di provocarmi fin da inizio, prima ancora che ci mettessimo a far botte, prima ancora che succedessi qualcosa. Ora io non è che gli voglio fare il processo a ritiroso, anche perché va già all'anima sua. Però ci sformo. Mi ci rode proprio che tutti gli amici sua, gli eccelsi intellettuali, gli giornalisti, gli scrittori, se raccontano così come sempre se la sono raccontata. E pelosi di qua, e pelosi di là, e pelosi è malandrina, è delinquente, è ragazzaccio di vita, oh! Ma poi io dico, ma che essi, no? Che dicono, ma frammento di morte qui, se lo so mai letto? No, perché io sono ignorante, perché da però quando mi ci sono cascati gli occhi, a me mi è preso il colpo. Questo dice che ha fatto fortuna nell'intelletto, te credo. Poi dice che c'ha paura di morire. Poi dopo che la morte la sente vicina, la accompagna, la morte è un'amica, è l'arrivo, è la meta, è l'unica risposta. Anzi dice... Aspetta, voglio leggere. Aspetta. È una gioia che si confonde con un tipo di godimento avido e livido, la passione delusa. Se pensate a come è morto, io non so a voi, a me me ci vengono i brividi. Io ho sempre voluto fare lo scrittore. Mi ricordo che quando avevo 17 anni, un pomeriggio a casa di mio nonno, mi capitò per caso tra le mani un'antologia di testi letterari del Novecento. Io allora non sapevo chi fosse Pasolini e nemmeno come era morto. Ma mi ricordo che questo libro aveva tra le pagine una cartolina della Callas che mi colpì molto. Ma chi ci aveva messa? Apro! E c'era una poesia di Pierpaolo Pasolini. Si chiamava La ballata delle madri. È una poesia bellissima. Ecco, vili, mediocri, servi, feroci, le vostre povere madri, che non hanno vergogna a sapervi nel vostro odio, addirittura superbi. Se non è questa che una valle di lacrime, è così che vi appartiene questo mondo, fatti fratelli nelle opposte passioni o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo a essere diversi, a rispondere del selvaggio dolore di essere uomini. Ma vi rendete conto? Tutti i mali del mondo, le guerre, gli abomini, i delitti, le sciagure, insomma di ogni nefandezza, erano colpevoli le madri. Le madri di tutti noi. Bellissima. È da quel momento che ho voluto essere come Pasolini. Sopra la poesia ci stava scritto: Pierpaolo Pasolini, nato a Bologna il 4 marzo 22 e morto ad Ostia, Roma, il 2 novembre 75. Vabbè, insomma, 22, 75. Giovane. Allora, spinto dalla curiosità, andai da mio nonno a chiedere com'era morto Pasolini. Mi raccontò che il 2 novembre 75 all'idroscalo di Ostia Pierpaolo Pasolini si trovava in macchina con Giuseppe Pelosi, che poi avrebbero tutti chiamato la rana per via desti occhi grossi che c'aveva. Dopo aver consumato, Pierpaolo chiese al ragazzetto qualcosa che a lui non andava bene. Allora sto ragazzetto reagì a bastonate e si diedero tante e tante botte che Pierpaolo era rimasto fermo a terra. E lui, scappando con la macchina, gli passò sopra e lo ammazzò. Poi ho saputo che subito dopo la sua morte, ma nessuno credeva che le cose fossero andate realmente così, tanti suoi amici intellettuali, gran parte dei giornalisti italiani, gridò al complotto politico. Dicevano che ad ammazzare Pasolini, ma non era stato soltanto Pelosi, ma che c'erano altre quattro persone che li avevano seguiti su quella famosa 1500 Fiat Blu targata Catania e che poi lo avevano giustiziato grazie all'esca Pelosi, gridandogli sporco, comunista, frocio, carogna. Beh, insomma, un modo per mettere a tacere una voce scomoda. Una voce che aveva denunciato sul quotidiano più importante d'Italia, il Corriere della Sera, crimini e misfatti della classe dirigente della politica italiana. In poche parole, un'esecuzione fascista. Processo Pasolini. Pubblica accusa. Avvocati Calvi e Marazzita. Difesa. Avvocato Rocco Mangia. Che poi è quello che aveva difeso gli stupratori del Circeo. Giudica. Moro. Il fratello di Aldo. Sentenze. La sentenza di primo grado del 26 aprile 1976. Condanna l'imputato Pelosi Giuseppe alla pena complessiva di anni 9, giorni 7, mesi 7 di reclusione. Ripeto. Ripeti perché sbagli sempre. Ok. La sentenza di primo grado del 26 aprile 1976 condanna l'imputato Pelosi Giuseppe alla pena complessiva di anni 9, mesi 7 e giorni 10 di reclusione per omicidio volontario in concorso con ignoti. Fuori la gente sotto i flash e le telecamere di Rai 2 gridava: Pino, resisti, hai fatto bene. La sentenza d'appello del 4 dicembre 1976 conferma l'omicidio volontario di Pelosi, togliendo il concorso con ignoti. Chi era per il complotto politico, ovviamente, gridò lo scandalo. La sentenza della Cassazione del 26 aprile 1979 conferma l'appello. Per la legge italiana, ad uccidere Pierpaolo Pasolini ad Ostia il 2 novembre del 1975 era stata una persona sola, Giuseppe Pelosi. Fine del processo, inizio del giallo. Mio nonno poi mi disse che una volta, sul traghetto Messina-Villa San Giovanni. Sul pontile ci stava Pasolini, che guardava il mare. Da solo. È da quel momento che ho voluto fare lo scrittore. Il mio linguaggio diventerà muto per eccellenza, oltre che per l'eternità. Eppure, chi domani mattina verrà e alzerà gli occhi per decifrarlo, capirà quale terribile forza, mai pensata finora, avrebbe avuto il mio desiderio di essere libero. Se avessi vinto il mio istinto attraverso cui la morte aveva dichiarato inutile ogni mia speranza. Il gruppetto di gente che il sole porterà qui, delegati dell'immenso mondo della storia, i vicini di casa in silenzio, i poliziotti col loro triste sudore, gli infermieri venuti dalla campagna, come li vedo, si troveranno davanti ad un fenomeno espressivo indubbiamente nuovo, così nuovo da dare un grande scandalo e da smerdare praticamente ogni loro amore. Allegri, dentro una delle tante case di questo quartiere, o per lutto, o nevrosi, o noia del pomeriggio festivo, c'è stato finalmente un uomo che ha fatto buon uso della morte. Signori, certo è, e quando il corpo straziato di Pierpaolo Pasolini fu ritrovato al centro del campetto di calcio all'idroscalo di Ostia, i vicini di casa in silenzio, i poliziotti col loro triste sudore, gli infermieri venuti dalla campagna, nessuno di loro avrà avuto coscienza quella mattina di trovarsi davanti ad un fenomeno espressivo indubbiamente nuovo. E ciò è anche comprensibile. Ma dopo che Orge è stato portato sulle scene di mezza Europa, quanti degli attori che hanno recitato questo monologo si sono accorti che stavano dando vita ad un poeta martire per autodecisione, che si accingeva ad esprimersi morendo? Ecco, la morte violenta di Pasolini è morte rituale, morte teorizzata e più volte oggetto di profezie. È linguaggio allo stato puro, linguaggio non scritto né parlato, ma linguaggio muto dell'azione, un linguaggio rielaborato in studio da un artista che ha voluto far buon uso della morte ai fini di un proprio progetto espressivo. Certo, io posso essere contraddetto, ma chi si sente in dovere di farlo ha soltanto due possibilità: o considerare la morte di Pasolini incidentale e quindi del tutto insignificante su un piano espressivo, oppure, seguendo le tracce dello stesso autore, attribuire ad essa l'omologa funzione programmata e stilizzatrice che il montaggio ha nel cinema. Cito testualmente il poeta: o esprimersi e morire, o restare inespressi e immortali. Ho concluso. Grazie. Sto preparando con sorda ironia l'ultimo rifiuto. Io pure adesso vado al mare da solo. E mi capita sempre la stessa cosa. Fisso un punto sulla sabbia e il sole riflesso lo prendo per acqua. Sul delitto Pasolini ne avete sentite tante di teorie, pure troppe. Ma questa che avete sentito adesso è una teoria che non accetta nessuno. E nessuno ne parla. È la teoria di un suo amico, un pittore di fama internazionale. Lui pensa che il vertice dell'arte di Pasolini, cioè il suo momento più importante, sia la morte, la sua, e che Pasolini in ognuno dei suoi scritti, delle sue poesie, dei suoi articoli, dei suoi film, abbia lasciato una traccia di questo progetto. Credeva che per Pasolini l'unica risposta possibile alla vita fosse la morte come futura rinascita, e che abitasse il mondo seguendo i valori greco-arcaici, con i loro cicli di morte e di rinascita. A testimonianza di ciò, dice, c'è tutta l'opera di Pasolini. Vabbè, questa teoria fece incazzare tutti. Gli intellettuali di sinistra gli diedero del reazionario, a Zigaina, il pittore, l'amico di Pasolini. Gli dissero che era impossibile che Pierpaolo, che amava così ardentemente la vita, avesse progettato di farsi ammazzare da un ragazzetto di vita per raggiungere la perfezione artistica. Gli dissero che era un poeta civile, messo a tacere una volta per tutte dai fascisti. Ma perché in Italia, noi, piccoli borghesi, la borghesia ufficiale, gli intellettuali, non accetteremo mai un uomo, per giunta un intellettuale di fama internazionale, che sacrifica la sua vita per redimere la propria e l'altrui esistenza, come Cristo. No. Pierpaolo è morto ammazzato in un incidente, come James Dean. Lavoro tutto il giorno come un monaco e la notte in giro, come un gattaccio in cerca d'amore. Farò proposta alla curia d'esser fatto santo. Rispondo infatti alla mistificazione con la mitezza. Guardo con l'occhio di un'immagine gli addetti al linciaggio. Osservo me stesso, massacrato, col sereno coraggio di uno scienziato. Sembro provare odio, e invece scrivo dei versi pieni di puntuale amore. Te ne andrai in un verso, vanificato dalla profezia, e io nel mio ultimo cantuccio, sotto il bel sole del mondo, arabo cristiano, del Mediterraneo, dell'Oceano Indiano, inadatto alla storia, inadatto a me, mi adatterò alla terra futura quando la società ritornerà a natura. Il 2 novembre del 2010 andrà in scena uno spettacolo teatrale. Si chiamerà Superstar. Lo spettacolo è una riscrittura di Petrolio di Pierpaolo Pasolini, quell'insieme di appunti che dovevano costituire la summa pasoliniana sul potere e sul sesso. Il progetto in Superstar è quello di costruire un enorme museo nel quale stipare tutto quello che Pasolini sapeva ed era, confessione sconvolgente e sincera di tutte le sue passioni e del suo essere borghese e perverso. Ma questo progetto rivelerà un mistero. Mistero di cui in Petrolio non si parla mai esplicitamente, quel mistero maturato nel 1964, la morte annunciata come rinascita mitica. Per realizzare questa morte si ha bisogno di un gesto esemplare che non può essere autoinferto, un gesto da compiersi per mezzo di una violenza pura e veramente anticulturale. Solo così il corpo martoriato può farsi mito. Questo gesto fu affidato alle mani di Pino Pelosi, un ragazzo di vita di 17 anni. Pelosi diviene il profeta inconsapevole di Pierpaolo Pasolini, colui che, attraverso il suo incognito agire, ha realizzato concretamente il mistero. Vittima dell'intelletto di Pierpaolo, Pino è colui che firma l'ultimo capolavoro di Pasolini, colui che lo rende superstar, colui che erige la statua dell'intellettuale per riderne. Di spettacoli su Pasolini se ne sono fatti tanti, pure troppi. Ma questo spettacolo qua farà incazzare tutti. Arriverà a dire che la figura dell'intellettuale, che noi tutti conosciamo con il nome di Pierpaolo Pasolini, è in realtà Giuseppe Pelosi. Voi vi chiederete perché questo qua vicino a me è vestito così, da matto, con la giacca d'Amleto, i pantaloni da punk, gli anfibi, i capelli gelatinati. Beh, ve lo dico subito perché. Perché questo qua è un amico mio. E fa l'attore. Ma non è mica un attore. È l'attore. E certamente mica perché è bravo, ma perché rappresenta l'identità dell'attore in un mondo di 33 identità. Di questo mondo faccio parte pure io. Ed è un mondo altrettanto intricato e misterioso, almeno quanto lo sono Le vicende di Petrolio, l'ultimo romanzo di Pasolini. Eppure De Petrolio se ne sono dette tante, che disegnava la mappa del potere italiano, con le stragi, i fascisti e i comunisti, la DC, gli intrighi di palazzo, l'ENI, la P2, Mattei. Anzi, dissero che Pasolini sapeva i nomi di chi aveva ucciso Mattei e che li avrebbe rivelati nel romanzo Petrolio. E proprio per questo l'avrebbero ammazzato. Una notte mi sono sognato che tornavo in aereo da Stoccolma. Ero andato a presentare il mio ultimo film. Si chiamava Salò, o le 120 giornate di Sodoma. Dopo che ero tornato, mi ero incontrato per una specie di ultima cena con Ninetto. Eravamo andati a mangiare pomidoro. C'era tutta la famiglia di Ninetto. Dopo, a una certa ora, avevo detto che c'avevo da fa. Allora ero salito sulla mia bellissima GT e mi ero avviato alla stazione Termini. Poi avevo cominciato a girare, finché non mi ero fermato di fronte al bar di Piazza dei 500. Lì incontro un ragazzo che sale in macchina con me, che tra l'altro assomigliava tantissimo a Ninetto. Ad un certo punto mi fermo per fa benzina e mi accorgo che dietro di me c'è una 1500 Fiat blu, targata Catania. Poi risalgo in macchina e prendo la strada per il mare, verso Ostia. Arrivato all'idroscalo mi rendo conto che non ci stanno più le baracche, non ci sta più il fango. È tutto bianco. E al centro, tra una porta e l'altra, c'è una statua. Un'enorme statua, tutta d'oro. La statua era Pasolini e aveva una strana espressione sul volto, come un gran sorriso, un po' smaliziato. Sotto ci stava una scritta: ho eretto questa statua per ridere. Quindi lui, lo scrittore, si è fatto ammazzare per essere Una statua. Un idolo. Un mito. Una superstar. È come James Dean. Quanto al futuro, ascolti. I suoi figli fascisti veleggeranno verso i mondi della nuova preistoria. Io me ne starò là, quale colui che suo dannaggio sogna, sulle rive del mare in cui ricomincia la vita, solo o quasi, sul vecchio litorale tra ruderi di antiche civiltà, Ravenna, Ostia o Bombay, è uguale. Con dei che si scrostano problemi vecchi quale la lotta di classe, che si dissolvono come un partigiano morto prima del maggio del 45. Comincerò pian piano a decompormi nella luce straziante di quel mare, poeta e cittadino dimenticato. Io ho sempre voluto fare lo scrittore, ma poi alla fine ho fatto il regista. E questo spettacolo qui è lo spettacolo mio. Mio e d'est'amico mio.